20 e 21, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Come annunciato, il mini pimer di questa sera è l'ultima puntata del primo ciclo, potremmo dire così, di trasformazioni femministe. Ospiti che si moltiplicano qui ai nostri microfoni. Davanti a me in questo momento abbiamo, non ve le ripresentiamo da capo, insomma vi diciamo solo i loro nomi, alcune insomma delle donne che hanno animato questo ciclo, e abbiamo Sabrina Marchetti, Caterina Romeo e Valeria Ribeiro Corossaz, che non so se vi vogliono immediatamente salutare. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera a tutte. E Renata Pepicelli invece interverrà telefonicamente, o perlomeno noi così pensiamo. Salutiamo anche invece Sonia, insomma, da questi microfoni, che stasera non è qui con noi, ma che ha, come dire, pensato, organizzato e partecipato a questo ciclo, che è iniziato proprio con un intervento di Sonia su femministe e lesbiche nere negli Stati Uniti, la simultaneità delle oppressioni di sesso, classe e colore. Ciclo che poi è continuato, insomma, con un intervento di Renata Pepicelli sui femminismi nel mondo islamico, e poi con Caterina Romeo, letteratura postcoloniale, le scrittrici africane italiane, è stata la terza puntata. La quarta è stata Intersezione di razzismo e sessismo nella violenza maschile contro le donne, con appunto Valeria Ribeiro Corossaz. E poi la quinta, Domestic Work is Work, la battaglia per i diritti delle domestiche nel mondo, con Sabrina Marchetti. Insomma, è stato un ciclo molto denso per costruirci insieme una cassetta degli attrezzi per una trasformazione possibile del reale. L'intersezione di sessismo, razzismo e classe, come dire, sono argomenti che ci interessano da sempre come compagne del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e particolarmente interessante ci è sembrato poter approfondire questi argomenti con tutte queste voci, perché appunto pensiamo che sia l'unico modo per costruirci anche collettivamente, appunto, delle parole e dei modi, delle pratiche per scardinare appunto l'intersezione di sessismo, razzismo e classismo. Stasera vogliamo un po' insieme tirare le somme di quello che ci siamo dette in tutti questi mesi, che abbiamo cominciato a dirci, perché gli argomenti sono molto ampi e ovviamente insomma gli interventi sono stati molto interessanti, ma non abbiamo esaurito il tema. E però appunto, siccome si tratta di argomenti dove i contributi anche individuali di chi ha parlato sono stati molto importanti, ma che comunque si tratta di riflessioni collettive, anche non soltanto individuali e non soltanto accademiche, ci è sembrato importante provare a metterci tutte insieme per vedere insomma, per passarci questi contributi. E la puntata di stasera, quindi, abbiamo come dire, pensato di centrarla in particolare sull'intersezionalità, perché è stato un po' il filo conduttore di questo ciclo, e forse la cosa migliore è cominciare così, ricordandoci cosa intendiamo con questa parola, che sembra molto complessa ma che fa parte anche, insomma, della quotidianità delle nostre lotte. Qualcuno di voi ci aiuta? Sì. Sì, abbiamo estratto a sorte, e toccherà a me, Sabrina, di dare un pochino la definizione di intersezionalità, che è una parola che appunto si inizia a sentire usare sempre di più nel dibattito italiano, ed è importante capire a che cosa si fa riferimento. In realtà c'è un dibattito molto molto ampio alle spalle, che parte dagli inizi degli anni Ottanta nel contesto statunitense, poi è arrivato in Inghilterra e nel resto d'Europa, e quindi io tempo fa ho cercato di ricostruire un po' questo dibattito, come si è sviluppato, e di fornire una definizione che potesse tenere insieme diversi approcci. Quello che è successo è che le teoriche dell'intersezionalità, quando il termine è stato coniato, si trovavano trovavano di fronte un contesto probabilmente diverso da quello che abbiamo noi oggi. Era un momento in cui il dibattito politico e teorico era sulla diseguaglianza, era molto acceso, molto forte, e c'erano però due grandi fazioni contrapposte, che erano coloro che vedevano il primato della classe per spiegare la diseguaglianza e l'oppressione, e coloro che vedevano il primato del sesso e del genere. E poi c'era anche le attiviste nere che invece proponevano, l'attivista e gli attivisti neri che proponevano la razza. Quindi, diciamo, fra questi tre posizioni titaniche era difficile capire chi, si cercava di capire chi avesse ragione, quale fosse la posizione che aveva un primum, che fosse un primum rispetto alle altre. Le prime teoriche dell'intersezionalità cercarono di scardinare queste contrapposizioni così nette, dicendo no, in realtà è una ricerca senza senso andare a cercare appunto quale di queste differenze ha il primato sulle altre, perché queste differenze si influenzano, modificano e modificano reciprocamente. Non potrei parlare di classe senza parlare di razza, non potrei parlare di razza senza parlare di sesso e genere, e nel modificare l'uno modificherò anche l'altro. A partire da questo spunto, negli anni successivi si sono elaborate definizioni di intersezionalità sempre più complesse, e abbiamo avuto studiose che sono arrivate addirittura a elencare 18 diverse categorie, chiamiamole categorie per il momento, che è il termine italiano più vicino, e in inglese direbbero assi di differenziazione, ma diventa un po' pesante, quindi chiamiamole categorie sociali. E dicevo, alcune studiose sono arrivate a elencarne fino a 18, mettendoci dentro per esempio il fatto di essere una persona abile o disabile, gioco un po' con i termini, oppure di essere una persona che vive in città o che vive in campagna, una persona che è proprietaria della casa dove abita, una persona che non ha proprietà. Tutta una serie di approcci che ci possono aiutare a fare cosa? Ad analizzare un dato, una situazione reale, un rapporto fra due persone, un rapporto fra due amiche, ma anche come è composto un gruppo all'interno di una classe, di una scolaresca, come questa scolaresca è composta. Quindi l'intersezionalità si propone innanzitutto come uno strumento, e alcune persone l'hanno vista come una teoria, ma probabilmente c'è poco spazio per vederla come una teoria. È uno strumento, è una cassetta degli attrezzi a cui io posso attingere ogni volta che voglio parlare di diseguaglianze, o laddove le diseguaglianze non sono visibili, renderle visibili. Questo è profondamente diverso da quando si dice la tale persona, la tale donna è oppressa perché è nera, perché è povera e perché è donna. Perché nel dire questo io sto pensando alla differenza come qualcosa che si somma, come degli strati, e quindi è quello che viene chiamato un approccio cumulativo dell'oppressione, oppressione 1, 2, 3, poi tiri una linea e fai un totale. L'intersezionalità si distanzia da questo punto di vista, dicendo che le differenze non si sommano, non c'è una sommatoria, ma c'è un'intersezione. L'intersezione è proprio a far vedere che se io ne modifico l'una, si modificherà anche l'altra. Nel momento in cui io cambio la mia posizione, faccio una traiettoria di cambiamento nella mia posizione di classe, magari sposandomi, insomma, i vari percorsi che si possono cercare di attuare, avrò cambiato per esempio la mia educazione, perché avrò anche studiato, e così avrò cambiato la mia posizione nello spazio, avrò fatto una serie di modifiche. Ovviamente il dibattito sulla differenza rispetto alla razza è quello più ampio e quello più radicale. Però di questo magari poi ne parliamo con le altre. Volevo solo dare una definizione iniziale. Quello che è importante è che il via, il grande là a questo dibattito è stato dato in realtà non tanto, non soltanto nell'accademia, ma negli studi, in particolare nel dibattito giuridico. la cosiddetta madrina dell'intersezionalità, infatti, è una giurista che si chiama Kimberlé Crenshaw e che nei primi anni Ottanta è andata a riesaminare dei casi legali avvenuti negli Stati Uniti nel corso degli anni Settanta e andando a vedere quelle occasioni in cui i diritti delle donne in oggetto non erano stati difesi proprio perché venivano facilmente liquidati come violazioni di diritti, cioè il loro caso veniva facilmente liquidato come violazione di diritti rispetto non esistente perché non erano state discriminate in quanto donne, oppure non esistente perché non erano discriminate in quanto nere. Il caso specifico è quello di un gruppo di operaie nere che fece causa alla General Motors perché dicevano di essere state discriminate contemporaneamente, simultaneamente, come donne e come nere, nel momento in cui l'azienda aveva iniziato a fare dei licenziamenti. Cosa successe? Che l'azienda iniziava a licenziare il suo i dipendenti utilizzando un criterio di anzianità di impiego. Quindi decisero di iniziare a licenziare solo i dipendenti assunti più recentemente. Le donne erano in realtà assunte da moltissimi anni nell'azienda, gli uomini neri erano assunti da moltissimi anni sempre nella stessa azienda, ma solo da poco erano assunte donne che fossero nere. Quindi questo è stato il gruppo che è stato il primo a essere licenziato in massa dall'azienda. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. And good would it be? No one to share with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got. È così che Kimberlé Crenshaw inaugura l'approccio cosiddetto delle discriminazioni multiple, che dall'epoca è entrato nella normativa, pian piano è entrato nella normativa statunitense, e anche oggi in Europa, alla Corte Europea, si può fare appello dicendo di essere stati discriminate secondo la discriminazione multipla. C'è un tipo specifico di discriminazione e violazione di diritti che è la discriminazione multipla. Però quello che è importante, forse prima di arrivare all'oggi e arrivare anche a come ciò è stato trasposto sul piano dei diritti, tornare un pochino indietro alle origini del dibattito, e a questo si dedicherà Valeria. E c'è una tappa di questa storia che ci piaceva ricordare, che riguarda sempre il contesto statunitense, in particolare un gruppo che nasce a Boston, che si chiama il Combahee River Collective. Nel 1974 si forma, e in realtà la parola intersezionalità non fa parte, diciamo, del loro linguaggio. Loro piuttosto parlano di interlocking, insomma forme di interconnessione, o usando anche forse un francesismo, di imbricazione di esperienze di oppressione sociale. Ecco, perché è importante, perché ci piace ricordare appunto questo gruppo oggi qui? Si tratta di un gruppo politico di militanti, di donne nere che si definivano nere, lesbiche, che pongono il problema appunto di come il sessismo e il razzismo sia vissuto nelle loro vite, e in particolare c'è una frase che loro usano, che scrivono appunto nel loro manifesto, che forse si può ricordare: e lottiamo insieme agli uomini neri contro il razzismo, e allo stesso tempo lottiamo contro gli uomini neri sul sessismo. Cioè, questo dimostra appunto la complessità della condizione appunto di un'esperienza, come diceva prima Sabrina, di molteplicità di esperienze di dominio. Ecco, qui la parola, forse una delle parole che ci possono essere utile, è quella appunto di simultaneità, di esperienze di dominio, di reciprocità nella riproduzione dell'esperienza di oppressione. Ecco, sicuramente l'esperienza del Combahee River Collective e appunto di tutto il dibattito sull'intersezionalità ci piace, ci coinvolge, perché va ricondotta a questo momento di militanza, a questo momento politico. È uno strumento analitico e politico, quello dell'intersezionalità, elaborato da gruppi sociali che hanno meno potere. Questo è importante, no? Ricordarlo. È uno strumento politico e analitico insieme, che è stato elaborato da gruppi di donne africano-americane nel contesto degli Stati Uniti, e anche se ovviamente possiamo sicuramente vedere esperienze parallele simili in altri paesi della diaspora africana, o che sono stati segnati dall'esperienza della colonizzazione europea, che appunto è uno strumento che ci rimanda a un'esperienza politica di rapporti tra diversi i gruppi, che appunto riguardano esperienze di rapporti tra donne, ma come vediamo da questa frase che citavo prima, anche di rapporti tra uomini neri e donne nere. E questo è uno dei temi, no? Una delle sfide, come concettualizzare. Quindi, ecco, sicuramente è l'altra parola che io credo che vada sempre ricordata, associata alla teoria dell'intersezionalità, è quella del femminismo, no? L'intersezionalità è un'esperienza, una teoria, una produzione, uno strumento femminista che matura all'interno di una pratica politica femminista, e questo ci piace ricordarlo oggi qui, perché non vogliamo appunto che venga depoliticizzata questo strumento, che venga delegittimato il femminismo, quando invece è il contesto entro il quale si sviluppa appunto questo strumento analitico. E quindi fondamentalmente questi sono gli aspetti che ci piaceva ricordare, facendo riferimento a questo momento che è un po' precedente storicamente a quello che ricordava appunto Sabrina prima degli anni Ottanta, ma è chiaro che c'è un continuum di lotte, di esperienze. Il Combahee River Collective era anche appunto vicino ad un contesto in cui i militanti e le donne militanti del Black Panther venivano perseguitati, e quindi è un momento di estrema produzione di lotte, di strumenti teorici critici, che sono due momenti che vanno sempre insieme. C'è un aspetto interessante di questa riflessione, esperienza del Combay River Collective, che può essere utile riprendere oggi, che riguarda anche la nozione di identità, perché proprio questa idea di una mutua costituzione, di una posizione di oppressione sociale, implica anche una certa idea di identità. Noi fondamentalmente siamo un po' abituati a sentire questi discorsi e queste politiche sull'identità che rivendicano l'identità come qualcosa di originario, no? Da difendere. Ecco, l'esperienza del Combay River Collective da questo punto di vista è veramente interessante e estremamente innovativa, perché loro appunto invece sostengono, proprio per questa forma di esperienza di simultaneità di oppressioni sociali, che l'identità non è qualcosa di originario, non è qualcosa di statico, no? Non esiste un'identità della donna nera come qualcosa appunto così di essenziale, ma è qualcosa che viene prodotta nelle esperienze, nelle relazioni sociali, e essendo appunto prodotta, essendo un processo, può essere modificata. Ecco, questo è sicuramente sicuramente uno dei contributi interessanti che ci può appunto aiutare anche a capire cosa vuol dire una teoria intersezionale, lo strumento dell'intersezionalità per leggere contesti, situazioni che hanno a che vedere appunto con la contemporaneità e sono vicine anche alla nostra esperienza qui in Italia. Sì, dunque io devo fare un piccolo inciso. Prima voglio fare un saluto a Maddalena che si aspettava questo saluto stasera. Parlando per terza, io sono Caterina, parlando per terza naturalmente magari finirò per ripetere anche delle cose che Sabrina e Valeria hanno già detto. La prima cosa che mi viene in mente che vorrei ribadire è proprio il fatto che l'intersezionalità come metodologia sottolinea il fatto che all'interno di gruppi ci sono comunque delle linee di potere di cui bisogna tenere conto, che bisogna tenere in considerazione, per cui mi veniva in mente questo testo che uscì nel 1981 negli Stati Uniti, che aveva un titolo molto significativo che si chiamava All the women are white, all the blacks are men, e poi eccetera eccetera, che vuol dire tutte le donne sono bianche, tutti i neri sono uomini, che vuol dire sostanzialmente quando si parla di donne si parla sempre di donne bianche, quando si parla di neri si parla sempre di uomini neri, e quindi l'oppressione, come diceva prima molto bene anche Sabrina, non è un'addizione, cioè l'intersezionalità tiene in considerazione proprio il fatto che l'oppressione non è uno più uno che fa due, bensì in che modo i vari livelli di oppressione si intersecano e come al cambiare di uno variano anche gli altri. E volevo ribadire anche una cosa che ha detto appena Valeria, che è molto importante secondo me, cioè che l'intersezionalità secondo me è uno dei maggiori contributi proprio che il femminismo ha dato ai dibattiti culturali in generale, a livello anche metodologico. È una metodologia che utilizzo nei corsi di studi di genere che tengo all'Università La Sapienza, proprio come una cassetta degli strumenti, ed è veramente uno strumento che presento sempre come imprescindibile, precisamente perché anche nei corsi che normalmente si insegnano gli studi di genere, che già non sono molto presenti nelle università italiane, si tende a non parlare del privilegio all'interno dei gruppi, e quindi si tende a parlare invece di donne come se le donne fossero tutte uguali. Nei miei studenti e le mie studenti che arrivano in classe, quelli che sanno che cosa vuol dire studi di genere, perché molti non sanno neanche esattamente che cosa questo voglia dire, l'idea in generale è questa, cioè che ci siano gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e che questa sia la differenza, perché un po' perché la cultura italiana, anche il femminismo italiano, ha un po' perpetuato quest'idea, si è parlato poco di altre differenze, ma anche perché secondo me è una... in qualche modo il discorso, secondo me, siccome va a toccare dei privilegi, è un discorso che risulta comunque, secondo me, complesso. Io quest'anno ho insegnato anche un corso in un'università americana, la Loyola University of Chicago, qui a Roma, e sono rimasta, per qualche motivo pensavo che, visto che la metodologia dell'intersezionalità ci viene dal mondo anglosassone ed è comunque qualcosa che nei corsi di studi di genere in altri luoghi insomma proviene da altri luoghi, quindi è molto presente, sono rimasta invece molto sorpresa nel vedere come appunto ci fosse un desiderio di protezione del fatto che, no, le donne bianche invece non, proprio in quanto discriminate, non discriminano a loro volta. Quindi è sempre molto importante, secondo me, io insisto molto appunto tra le varie categorie su quella della razza, e si parte proprio dal presupposto che siamo tutti razzisti, precisamente perché siamo cresciuti in una società in cui il razzismo costituisce proprio una struttura di quelle portanti, e quindi ci concentriamo molto appunto nel vedere come questi livelli diversi di privilegi funzionano e come appunto devono essere considerati, devono essere visti innanzitutto, no? Cioè ci si deve rendere conto del fatto che all'interno della categoria donne, che è una categoria molto ampia, ci sono delle situazioni di privilegio e delle situazioni di svantaggio, quindi essere in grado di riconoscere questo prima e poi di analizzarlo. Questo ovviamente, tra l'altro, è uno strumento assolutamente fondamentale fondamentale per analizzare anche l'Italia contemporanea, dove le differenze tra donne sono anche maggiori che in passato, come risultato insomma delle migrazioni transnazionali in epoca contemporanea. C'è qui Sabrina che appunto studia molto i rapporti tra le donne italiane e le donne che svolgono lavori di cura nelle famiglie italiane, no? E quindi ovviamente se pensiamo a questo semplicissimo rapporto datrice di lavoro e lavoratrice di cura all'interno di una famiglia, ci rendiamo conto del fatto che quando parliamo di donne dobbiamo un po' capire che posizione sociale queste donne assumono. Oggi in classe, proprio oggi in classe, abbiamo letto una poesia in inglese di una poeta il cui nome è troppo complicato e non lo so leggere, non ve lo dirò, che si chiama Sisterarchy, che vuol dire in qualche modo sorellarcato, se esistesse questa parola, come patriarchy vuol dire patriarcato, quindi il potere di una sorella su un'altra sorella, che fondamentalmente parte dall'immagine che c'è una donna nera che sta pulendo il pavimento sulle ginocchia e c'è la sua datrice di lavoro bianca che la sta istruendo appunto su nozioni di femminismo. Quindi no, proprio queste differenze che devono essere assolutamente sempre presenti nell'analisi. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura, io non ho. Il tempo non ti aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto. Ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male. E adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. Fosse clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Quello che ci cambierà. Il punto che sollevava Caterina, di nuovo Sabrina che parla, è effettivamente interessante, cioè quello di come l'intersezionalità ci aiuta a parlare innanzitutto di differenza fra donne, di rapporti di potere agiti fra donne. E per me questo era molto interessante guardando al caso dell'impiego di donne straniere nell'ambito del lavoro domestico e di cura, e al tempo stesso era interessante andando oltre questo ambito, perché la situazione del lavoro domestico è un po', diciamo, un prisma di quello che può accadere nella società in senso più ampio. Il problema per me, che cercavo di fare questo tipo di analisi ormai quasi 10 anni fa, era di non trovare nessun appiglio teorico, non trovare studi che parlassero di questo nell'ambito italiano, quasi come che il femminismo italiano fino a quel momento non si fosse occupato di questa cosa, o forse chi se ne occupava non aveva avuto poi, non aveva trovato spazio, non aveva trovato margini per essere ascoltata. Successivamente, andando in Olanda, ho trovato che invece l'approccio di intersezionalità lì era in auge. Era interessante però vedere che c'era uno spostamento, che loro quando parlano di razza, quando parlano, quindi, e usano l'intersezionalità per analizzarla, non parlavano di donne migranti, ma parlavano di olandesi nere o olandesi musulmane. E per me invece era importante mantenere la migrazione, perché la migrazione è un'esperienza di tipo specifico che non andrebbe persa. Ora, no, penso che forse anche Valeria voleva ricollegarsi a questa cosa, quindi le lascio la parola. Sì, certamente tutte e tre siamo qui oggi. Abbiamo avuto delle esperienze di formazione, non solo in senso appunto di studio all'estero, e questo è qualcosa su cui riflettere, nel senso che poi noi ci ritroviamo oggi ad essere ricercatrici in Italia, ma questo nostro interesse per l'intersezionalità viene, mi pare di poter dire appunto per tutte e tre, viene da un contatto con contesti, paesi che sono appunto al di fuori dell'Italia, nel mio caso la Francia, il Brasile, la Gran Bretagna, il caso di Caterina, magari poi lei ci racconterà meglio appunto gli Stati Uniti. Questo perché è importante, diciamo, non è solo una nota biografica come diceva prima Sabrina, ma perché appunto ci riporta ad un contesto che è quello italiano, in cui è come se una produzione teorica e un'esperienza reale di rapporti di potere non trovasse spazio nell'ambito appunto della formazione, no? Cioè quello che diceva prima Sabrina, una mancanza anche di visibilità di quelle che erano invece delle lotte, delle questioni che venivano poste da alcune soggettività. Ecco, a noi sembra che una certa produzione appunto della teoria della differenza sessuale abbia avuto un ruolo importante in questo panorama, che in effetti ha posto la questione della differenza molto nei termini appunto di una differenza sessuale, spesso anche intesa in termini quasi ontologici, mentre qui quelle categorie che noi stiamo usando hanno a che vedere più con la processualità, con i rapporti sociali, con le forme di dominio. Allora, uno dei grandi problemi per noi qui oggi è sicuramente la sistematica rimozione, non riconoscimento del razzismo, come diceva prima Caterina, che è della nostra storia, un razzismo che non può essere assolutamente ridotto appunto all'esperienza fascista, perché è precedente, un razzismo che è pervasivo, che è appunto negato, e così fortemente negato appunto che è difficile da porre, e quindi è difficile da nominare nei rapporti anche appunto tra le donne. Ora, sicuramente appunto l'intersezionalità è uno strumento che nasce proprio per attaccare frontalmente il razzismo. Io non credo solo per parlare di rapporti di potere tra donne, ma per parlare proprio del razzismo che è sistematicamente attraverso dei meccanismi che poi cambiano da società, da periodo storico, negato. Si nega la potenza del razzismo come un sistema appunto di privilegio. E io penso sempre che per parlare di razzismo non sia sufficiente, e forse a volte sia quasi fuorviante parlare di discriminazione e di violenza. Parlare di razzismo significa parlare di privilegio, e questo ci mette tutte in ballo, no? Ci chiama tutte a riflettere su come si producano posizioni di privilegio. Il privilegio è tanto, no? È anche il privilegio dell'eterosessualità, come molte compagne lesbiche ci hanno ricordato, il privilegio di essere in coppia o di non essere in coppia, di essere per esempio facilmente categorizzabile come una donna madre di figli, già quello dà una posizione alla donna, no? Nei rapporti sociali. Quindi il privilegio è una categoria secondo me molto importante che va utilizzata, che va rilanciata quando parliamo di razzismo. Su questo penso appunto che ci sarebbe ancora molto da dire, da riflettere insieme, e molto del percorso che abbiamo fatto qui in questo ciclo di incontri credo che sia stato sicuramente uno sforzo per tutte noi e che va un po' incontro al lavoro che fate qui in trasmissione. Dunque, per di nuovo Caterina, per riallacciarmi a quello che diceva Valeria, appunto il femminismo italiano è un femminismo che è molto si basa quello storico, insomma quello che viene definito il femminismo storico, appunto sulla teoria della differenza sessuale, che è una teoria molto di matrice psicanalitica e quindi che in qualche modo porta ad un essenzialismo rispetto appunto alla natura delle donne e alla natura degli uomini, laddove invece il femminismo appunto dell'intersezionalità, molto quello di matrice anglosassone, che è quello a me più vicino, si basa invece molto di più sulla conoscenza delle condizioni materiali e delle differenze che queste diverse condizioni materiali comportano. Anche per me il tema delle migrazioni, come Sabrina diceva per lei prima, è stato molto importante perché appunto quando uno studia tematiche di migrazioni si rende subito conto del fatto che le donne che appartengono a questi gruppi la prima volta insomma che ho cominciato a studiare le migrazioni ormai 15 anni fa a questo punto ho cominciato a studiare le donne italoamericane negli Stati Uniti, e appunto una delle rivendicazioni che sempre incontravo negli scritte le donne italoamericane che loro si sentivano emarginate tanto dalla cultura dominante del mainstream americano, quanto dal femminismo americano, quanto dalla cultura maschilista e patriarcale all'interno delle proprie comunità, no? Quindi uno si rende conto appunto del fatto che essere una donna in quella situazione, essere una donna italoamericana, vuol dire appunto riuscire a combinare tutte queste differenze. Adesso appunto questa pratica, questa metodologia dell'intersezionalità è necessaria, quanto mai necessaria secondo me per leggere la realtà transnazionale postcoloniale dell'Italia contemporanea, dove appunto le differenze sono sicuramente in crescita, dove il tema della razza si interseca per esempio a quello della cittadinanza, dove tutte queste tematiche naturalmente devono essere tenute insieme, e dove parlare della donna e dell'essenza della donna al singolare è diventato quanto mai obsoleto. Bene, 21:10, questa è la conclusione della trasmissione di oggi e del ciclo di trasformazioni femministe. Vi ricordiamo ovviamente che le 7 trasmissioni, compresa questa, le trovate nel blog del martedì mfla.noblogs.org, quindi potete riascoltarle. Avete pensato a un secondo ciclo? Annuite. Sì. Ci veniva in mente qualcosa su cittadinanza e razzismo in una prospettiva femminista, per esempio. Vogliamo rilanciare. Bene, bravissima. Allora vi aspettiamo, questo senz'altro, poi ne parleremo. Salutiamo nuovamente Sonia, Renata, che di cui abbiamo aspettato la chiamata, ma evidentemente non poteva. Qualcun'altra? Vabbè, tutte quelle che sono passate. Sonia, sì, l'abbiamo già salutata. Bene, allora noi vi salutiamo qui e a risentirci presto. Grazie, risentirci. Buona serata. Ciao. Ciao, grazie.